Sei su Radio Wombat, questa è Radio Wombat, 8 Hertz. Demuestra que no aceptan a los políticos tradicionales. Quieren una persona más capacitada para esa posición. Por eso Gorizano es una esperanza para Nueva York. El 8 de noviembre usted puede votar por uno de esos dos políticos que lleva más de una década viviendo de los contribuyentes. End of message. To erase this message, press 7. To reply to it, press 8. At the tone, record your reply to Selena Harper. Anyway, I can't see too much because the wall's down. back in a while. No, I'm okay, I'm upstairs in my room. But I've got it now, I can't change it now. Anyway, No, I quite agree. Half of them don't open either. But, you know, I want you to sit. So, I mean, the thing to do is ring Graham tomorrow, and I will call Julia and say, is there a possibility? In fact, what we could do is look at it on our way back from, I'll give her a ring anyway. Yeah, okay. So you got back all right. Good. Good. Oh, right. Buonasera a tutti, sei su Radio Wombat e questa è 8 Hz. Stasera mi è venuto a trovare un ospite, un amico qua in regia, e abbiamo l'onore di presentarvi un silente del Zauker del TK, che quindi metterà alcuni vinili che ha gentilmente portato a farci ascoltare, roba abbastanza rara e preziosa, impreziosita ancora di più il fatto che non è scaricata ma è direttamente ascoltata sui piatti di questa radio. E avevo fatto ascoltare prima dell'estate un live suo che fece al Next Emerson a Firenze per una serata OTK, l'ultima che è stata fatta, diciamo. E questo pezzo che ha portato in realtà è un 10 pollici, credo, un 10 pollici 33 giri, no, 12 pollici, 12 giri, 33 giri con due brani di Trowl, a nome Trowl, che altro non è Scanner, tutto, insomma la storia è lunga perché Scanner è questo tipo di Londra che fa elettronica da una vita, il primo periodo ora ha cambiato un po' genere, è andato più sull'ambient melodico dopo alcuni spiacevoli incidenti che gli sono accaduti in vita, però nella prima parte della sua carriera, fino a metà carriera, era abbastanza cupone e sperimentale. E tra l'altro, infatti, si sentono anche in questo pezzo delle telefonate. La cosa bella è che proprio negli anni 90, credo verso il 95, 96, 97, ora non mi ricordo, alla Stazione Leopolda, per un festival grandino, suonò Scanner, e praticamente la sua performance era hackerare i cellulari delle persone, quindi forse era anche un pochino dopo il 97, perché non erano così comuni. Vabbè, comunque, sicuramente trovate, se vi interessa l'argomento, trovate scritto sui siti. Praticamente hackerava i telefoni, riusciva a intercettare le telefonate del pubblico mentre o chi stava a fare così, e le rimetteva un po' insieme o effettate. E questa cosa c'è anche in questo pezzo, che in realtà è remixato da Bill Loswell in questo lato, nell'altro lato invece di remixato da Mick Harris, che è il tipo Scorn, insomma ve l'ho fatto sentire varie volte. Bill Loswell, se volete sapere chi è un bassista, produttore famosissimo, che ha fatto centinaia di dischi, per cui insomma cioè, non riusciresti neanche a parlarne in una trasmissione, ma dovrebbero essere fatti più trasmissioni, più puntate, diciamo, sul personaggio. Produttore di dub, soul, funky e anche di robe più pesanti e metal. John Zorn, una delle cose più estreme di John Zorn erano i Painkiller, in cui tra l'altro suonava il basso Bill Loswell e la batteria Mick Harris, che suonava Nena Pandette poco prima, insomma. Quindi insomma, tutti i personaggioni, poi sono tra quelli miei preferiti, quindi insomma, bello bello. Ho scoperto un po' spulciando che nel 2020 era uscito anche un disco di J.K. Flash, che altro non è l'anima più techno di Justin Broderick di Birmingham, come Mick Harris, quasi tutta roba inglese questa di stasera. Mick Harris, sì, Mick Harris, mi perdo perché c'era un sacco di roba da dire, poi alla fine Justin Broderick, lato diciamo più techno bombardone delle sue attività musicali, che sono più conosciute come fautore e mente dei Godflesh e di Jesu, scritto Jesu con la J, che è un po' il proseguo dei Godflesh in chiave un più shoegaze, diciamo. Comunque, il disco si chiama Depersonalization, e il brano che vi ho scelto anche, che è quello un pochino più diverso, è meno techno, è un po' più sintetico, arpeggiato. Buon ascolto. Ecco, questo era il grande pezzo, nuovo pezzo di JK Flash, che si chiama appunto Depersonalization, come il disco, come il titolo proprio dell'ultima cosa. Il pezzo ora che vi mettiamo, sempre tratto da un vinile, tra l'altro un vinile rarissimo, uscito solo in 200 copie per Stahl Platt, che è un po' l'etichetta che ha prodotto tutto ciò di quello, quasi tutto ciò che è uscito a nome di Muslim Gauz, il vero nome si chiama Bryn Jones, che è stato un tipo particolare, purtroppo ci ha lasciato nel 1999, ha agito in tutti gli anni 90, partendo proprio da fine anni 80, con un'elettronica che ha sempre quasi stretto la mano alle sonorità palestinesi, è sempre stato movimento di liberazione della Palestina, ma in realtà poi non è mai stato un vero e proprio attivista, era quasi un nerd che stava spesso a casa, non è mai andato in Palestina, credo che forse non fosse neanche un credente, non si capisce, insomma è stato sempre molto strano, aveva un grande rispetto e si era proprio a quanto si può leggere ovviamente nelle varie fonti, nei vari siti, nelle varie interviste, ha avuto la passione proprio per la Palestina, anche proprio come fatto sonoro oltre che politico, diciamo, e sociale. Insomma, era quasi un difensore inglese dei palestinesi, moltissimo a livello audio, diciamo. Anche lì ci sarebbe da parlare veramente per tante ore e fare tante trasmissioni, perché da quando è morto ne saranno usciti tanti altri, c'è proprio una fondazione che sta dietro alle uscite del Muslim Gauz, una fondazione una parola grossa, però insomma c'è chi sta dietro alle uscite sue, postumo, chi c'è stato, e c'è anche tanta roba che probabilmente non uscirà mai. Questo disco è un 10 pollici, appunto tiratura limitata di 200 copie, che si chiama No Human Rights for Arab in Israel. In realtà era stato fatto nel 95 come primissime versioni, e nel 2004 è uscito una sorta di ristampa. Ora non so, il suo di Der Zucker se è del 95 o del 2004, ma forse è del 95, mi dice che è del 95, anche perché erano 200 copie limitate, quindi la copertina mi dice che sì, è in carta riciclata, e c'è anche una sorta di appello, andrebbe letto tutto, è venuto a trovarmi un po' all'ultimo e si è deciso di fare tutto all'ultimo, quindi però sì, la carta è riciclata, assurdo. E quindi ora ce lo mette, ascoltiamo un pezzo tra i quattro, mi diceva, che ci sono. Ora i titoli credo che siano, non sono sul vinile e credo forse neanche su Discogs, se andate a cercare, non so se si trovano, aspetta, se volete controllo un attimo, e se ci sono tanto non sappiamo qual è, quindi però era giusto per, no, ci sono delle tracce che, aspettate, ormai tanto ora ve la dico tutta, fosse facile con queste, no, non ve la dico tutta perché sennò i ritmi qui della radio si afflosciano, e quindi ascoltiamoci Muslim Gauz, e forse è la prima volta che sentite, non so se ve l'avevo già messo in passato, comunque questa è una delle 3 miliardi di cose che ha fatto. Vai. We'll be right back. Questo era il fantastico pezzo di Muslim Gauze. Poi vi ho detto un po' di cose, ma non vi ho detto un po' la stilistica. Si prende in realtà un sacco di campioni di ritmiche, percussioni varie, da appunto musiche palestinesi, medio orientali, e poi le trasporta un po' tutta in chiave della musica un po' elettronica degli anni 90 che gli piaceva, o che fondamentalmente ha creato pure lui, come il down tempo, qualcosa anche di simile al trip hop o all'elettronica pura, come Azzazzini, con un altro disco che è più minimale, insomma. E il suo stile è anche molto, molto grezzo, cioè il distorsorone che piano piano tira su, pezzo tutto uguale, ipnotico, però chissà come mai ci piace tanto alla fine. Rimanendo un po' sul downtempo e sull'industrial, sulle distorsioni, così vi metto un pezzo di The Course of Golden Vampire, il primo dei due dischi usciti come The Course of the Golden Vampire, che era un progetto tirato su dai due dei Techno Animal, che erano Kevin Martin e Justin Brody, che avete sentito prima, insieme a Alec Empire, almeno nel primo disco, che è questo qua, che è appunto una sorta di orgia sonora tra distorsioni, dub, downtempo e anche un po' di hardcore, ma soprattutto nel secondo album è praticamente un hardcore elettronico, quasi, anzi, più dell'hardcore, è quasi un grind elettronico. Ovviamente uscì per la Digital Hardcore Recordings, che è l'etichetta di Alec Empire. Questo pezzo si chiama Kamikaze Space Program, The Curse of the Golden Vampire. Thank you. E eccoci tornati a 8 Hz, questa puntata tutta un po' all'insegna dell'elettronica, abbastanza pesante, ma non in quanto a velocità, ma proprio a livello di cadenza. Da un tempo industrial, qualcosa anche che si avvicina al noise, come il pezzo che avete sentito dei Curse of the Golden Vampire. E qua siamo con l'ospite Der Zauker, che ora ci fa sentire un altro pezzo di Muslinghaus che abbiamo sentito due pezzi fa, e tra l'altro ha portato in regia proprio il cofanetto di questo disco, che si chiama Tandoori Dog, come il tandoori sembra il cibo indiano, diciamo, o il fornetto indiano col quale fanno il dog, che è un cofanetto di 4 vinili 12 pollici 33 giri, edizione limitata di 300 copie numerate a mano. Dentro ci dovrebbe essere anche un'informativa con se uno si voleva iscrivere alla sua mail con tutte le sue uscite, credo il servizio postale, insomma. Il disco è uscito nel 98. Sono quattro i dischi, anzi, perché sono quattro vinili, uno verde, uno blu, uno color vinile, mi pare, e l'altro rosso, giusto? Sì, me lo conferma, sì. Ora ha scelto una traccia tratta dall'LP blu, cioè il disco proprio blu, che è anche bellino. Il disco blu si chiama Jerusalem, si chiama. Gli altri invece si chiamano Libya Tour Guide, Jangid Zarb e Tandoori Dog. Allora, la prima traccia di Jerusalem si chiama Istanbul Liqueur, tipo liqueur, mi ricordo, non so bene come si dice, comunque credo il liquore di Istanbul. La facciamo partire, anche questa è molto molto difficile da trovare, più che altro è difficile da trovare in vinile perché ne uscirono solo 300 copie, e poi venne ristampato anche questo negli anni 2000, ma credo solo, non credo con tutti i pezzi di questi quattro album, se no ve ne andate a cercare, perché se no non se ne esce più. Vai. Buon ascolto, Muslinghaus. We'll be right back. Eccole, poi iniziava subito il pezzo dopo, difficilissimo da stare attento e fermarlo alla fine del brano. E questo, ecco, era già un altro esempio di quello che Muslim Gods faceva, un misto tra downtempo industrial e musica anche tradizionale palestinese o medio orientale, diciamo. Vi faccio rilassare un attimo mettendo un brano un pochino più accettabile, anche se bellissimo, di un tipo che fa elettronica da tanto, si chiama Death in Vegas, che passa dall'elettronica psichedelica ai rock psichedelico, alla techno in 2 secondi, alla musica anche un po' più minimale. Insomma, è molto famoso in realtà. La cosa buffa è che si dovevano chiamare Dead Elvis con il suo compare all'inizio, ma poi i fan di Elvis Presley l'hanno praticamente quasi minacciato, sicché chiamò il progetto Death in Vegas e il primo disco lo chiamò Dead Elvis. Ma questo brano è tratto da uno degli ultimi, da Satan's Circus, che uscì per la Drone nel 2004, e il pezzo si chiama Regen. Buon ascolto. Thank you. vi lasciamo con l'ultimo vinile. Questo non era in vinile, ma quello che ascolterete sì, che è un vinile di Fret, di, ovviamente, che è il progetto un pochino più pesantone da un tempo, ma non dub come Scorn, sempre di, del tipo appunto di Scorn, se ne parlava prima, insomma. Ora è stata una sorpresa, quindi il titolo non me lo ricordo e anche lui no, non lo sa, perché in realtà è un disco tutto un po' nero, però comunque se c'è scritto Fret e basta, quindi ve lo accettate così, che sicuramente vale la pena in ogni caso di ascoltare. E anche questa non è roba facilissima da trovare, per cui stasera un sacco di chicche in vinile. Grazie a Der Zauker, la prossima volta parlerà forse, ma chissà quando ci sarà la prossima volta, ma voi non disperate, in qualche modo se farà. Buonanotte a tutti, questo è un pezzo di Fret, dai, ciao. 8 Hz, Radio Wombat.